sono blues, come un twist, non si capisce più. È un giorno X che dentro me la pioggia viene giù. La la. E arriva un tram, e arriva un jet, e arriva un'auto blu, e un frigo bar, e una ciclette, e sopra ci sei tu. E chissà come, chissà dove mi raggiungerai, la bocca piena di poesie che non mi hai scritto mai. Ma che gelida manina, ma che gelida manina, ma che gelida manina, se la lasci riscaldare. Ma che gelida manina, ma che gelida manina, ma che gelida manina, se la lasci riscaldare. In che aeroporto, non ci rivedremo mai, sì che lo sai, diventerò schiavo dei pezzi tuoi. Ci fosse un pub, ci fosse un bar, ci fosse un auto green, ma qui ci siamo solo noi su questo pazzo beat. Ci vuole charm, ci vuole jazz, ci vuole sex appeal, ci vuole un pass, ci vuole sense, e poi ci vuole un reel. Ma che gelida manina, ma che gelida manina, ma che gelida manina, se la lasci riscaldrà. Ma che gelida manina, ma che gelida manina, ma che gelida manina, se la lasci riscaldrà. Ma che gelida manina, ma che gelida manina.